Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, oggi giovedì 5 luglio. Andiamo in onda con un'altra corrispondenza di oggi, sempre dal mondo del lavoro, delle lotte per, del lavoro dei lavoratori, e lo facciamo con Augusta, una lavoratrice di Cinecittà. Ciao. Ciao. Ciao, allora noi abbiamo già parlato sabato scorso, se non mi ricordo male, già da questi microfoni di quella che è la lotta dei lavoratori di Cinecittà. Da ieri, se non mi sbaglio, insomma, siete entrati in occupazione, addirittura l'occupazione, insomma, degli studio, dei teatri di Cinecittà, una cosa, insomma, che almeno che mi ricordo io non si è mai vista. Insomma, occupato i terrazzi di Cinecittà, oltre che alcuni suoli di Cinecittà, dove abbiamo piazzato delle tende che da ieri ci stiamo dormendo. Qui al terrazzo ci sono delle persone che hanno iniziato già lo sciopero della fame da oggi, e questo solamente per combattere contro i poteri dei forti, chiamiamoli, perché poi non c'è un intervento della politica che possa darci una mano a sospendere queste procedure che vanno avanti di spacchettamento nei confronti dell'azienda, del cine audiovisivo. E quello che stiamo chiedendo è un intervento dello Stato, soprattutto anche del ministro Ornaghi. Lui ha fatto un comunicato stampa dicendo che il progetto fatto dal signor Abete e Company era un buon progetto, anche con la costruzione di un teatro, ma noi all'interno degli studi abbiamo 21 teatri, 21, quindi da 15 anni che lui ha la gestione degli studi non ha fatto nulla per restaurarli o per renderli agibili. È questo quello che noi denunciamo, e denunciamo anche il fatto che siamo stanchi di essere spacchettati, perché la post-produzione di Cinecittà, si chiama Cinecittà Digital Factory, che è stata creata nel primo gennaio del 2009, e verrà spacchettata di nuovo. Cioè il laboratorio sviluppo e stampa, 41 lavoratori, verranno ceduti, anzi affittati, a una multinazionale americana, Deluxe, mentre il digitale e l'audio verrà affittata, altri 47 lavoratori, a Digital Deluxe Roma, sempre la multinazionale americana, per uno per 3 anni e l'altro per 5 anni di affitto, e con possibilità di recesso da parte della multinazionale. È questo che noi denunciamo, perché non è possibile affittare una post-produzione che comunque chiude con un bilancio positivo. E un'altra cosa, le maestranze di Cinecittà, quindi i Fabbri, i Falegnami, tutto quello che hanno costruito un mondo intorno al cinema, verranno mandati via da Cinecittà e verranno trasferiti a un'altra società chiamata CAT, dove verrà cambiato il contratto, verrà fatto un contratto commerciale, non più cineadiovisivo. Loro dicono che questo progetto è per il rilancio del cinema, ma quale cinema se poi le maestranze vengono cacciate, vengono mandate da un'altra parte? Quindi non è un progetto, questo è un progetto di speculazione. Quello che chiediamo allo Stato, al Presidente della Repubblica, a tutti quei poteri politici che stanno in alto e che dovrebbero aiutare i lavoratori, è di sostenersi e di visionare bene la mission che il signor Abete da oltre 15 anni non sta portando avanti, cioè quella di fare cinema. Ci sono dei contratti firmati dal 1997 con tutti i partiti parasociali, proprio per evitare che la Bad Company faceva un altro all'interno degli studi cinematografici. Questa è una denuncia che noi vogliamo fare forte e diffondere a Roma, a livello nazionale. Senti, quanti sono i lavoratori che oggi lavorano a Cinecittà e che sono, diciamo, vittime di questa speculazione, come giustamente la chiamavi tu? Siamo intorno ai 250 lavoratori, di cui c'è un indotto di più di 5.000 figure che ruotano intorno a noi. Quindi niente, poi non ci saranno più le maestranze. Cioè, questa è la cosa ridicola. Come si fa a fare cinema? Come si fa a far venire una troupe estera per farla venire qui se non ci sono più le maestranze? Che facciamo? Cioè, Cinecittà viene svuotata dalle proprie maestranze. Questa è la cosa ridicola, mi sembra assurdo che comunque non viene vigilato su questo da parte dello Stato. Senti, io leggevo che diciamo il Ministero dei Beni Culturali tiene il 20% del pacchetto azionario, sì, di Cinecittà, sì, Studio, addirittura il Ministero dell'Economia è proprietario assoluto dell'area, dei teatri, dei immobili di Cinecittà. Ecco, quindi comunque ancora oggi direzione statale, diciamo, è fondamentale per quegli studi, però appunto né loro né la regione né il comune, insomma, nessuno si è fatto sentire rispetto. Comune e regione abbiamo cercato di contattarli insieme ai nostri sindacati, però non hanno dato una risposta. L'unico che ci ha ascoltato è stato Nicola Zingaretti, il presidente della provincia, dove ha fatto un comunicato stampa. Certamente diciamo che comunque ci ha ascoltato. L'unica cosa, noi vogliamo una posizione forte, certo, una posizione a favore dei lavoratori, e l'abbiamo invitato anche questa sera alle 18:00 ci sarà l'assemblea qui davanti agli studi cinematografici, dove verranno vari personaggi politici tra cui l'IDV, PD, e quindi chiediamo anche al presidente della provincia se viene, e sentiamo l'invito anche alla Polverini e ad Alemanno, visto che comunque dicono che non ci sono problemi, però i problemi ci sono, perché i lavoratori lo sanno quali sono i problemi qui all'interno. Non c'è una politica aziendale che aiuta a migliorare lo stato di questa situazione. E quindi cementificare non è la soluzione alla crisi che stiamo passando. Quando anche il Presidente della Repubblica ha detto che l'Italia migliore è quella che scende in campo, non è vero, perché noi stiamo scendendo in campo, stiamo iniziando uno sciopero della fame solamente per 1.100 euro al mese, per questo, e quella sarebbe l'Italia migliore. Allora noi che siamo? Senti, ma a proposito, insomma, naturalmente rilanciamo l'assemblea che è pubblica, da come mi sembra di capire, sì, alle 18:00, sì, davanti agli studi di Cinecittà 1055. Esattamente, quindi invitiamo anche gli ascoltatori e chiunque voglia andare, insomma, a passare, a sentire, a conoscervi e a conoscere la vostra lotta. Ecco, io chiediamo anche un aiuto da parte dei giornalisti, perché dei giornalisti poi comunque non stanno neanche sul pezzo, giornalisti, attori, registi, noi stiamo contattando tutti, però chiediamo un maggiore sostegno. Infatti una domanda che ti volevo fare, no? Il mondo del, sì, cinema italiano come sta rispondendo a questo? Insomma, gli studi di Cinecittà da molti anni hanno avuto, insomma, una lenta decadenza, anche perché Abete e chi prima di lui non ha investito realmente su quell'area, se non appunto facendo speculazioni, portando la saturazione, pensiamo, degli spazi, come ci facevi capire tu prima, e appunto è comunque tutte le varie aziende di produzione non da molti anni, insomma, vivono Cinecittà in maniera, insomma, poco produttiva, perché preferiscono naturalmente andare anche loro a localizzare, ad usare contratti precari nel mondo dello spettacolo, insomma, di tutto questo mondo voi avete avuto contatti, li state chiamando, insomma, come si stanno rapportando, che poi sono quelli che poi alla fine danno le... Ma noi abbiamo contattato vari registi, vabbè, anche attori come anche Massimo Ghini, che comunque è anche con noi in questa lotta. Delle petizioni online sono state firmate anche dal maestro Dario Fo, Franca Rame, il professore Roberto Vecchioni, cioè comunque abbiamo allargato un po' il giro. Sabina Guzzanti comunque ci sta dando una mano con il suo blog, però sono sempre quelle persone che combattono contro i poteri forti o che hanno una cultura superiore. Il problema è che qui bisogna rispondere alla voce. La domanda che ti volevo fare era appunto se mi potevi fare un minimo insomma di quadro rispetto a quello che è la cinematografia oggi, che poi investe su Cinecittà o meno, insomma, qual è lo stato. Allora, il problema è che all'interno degli studios ormai i teatri sono diventati inavvicinabili per i costi, ma questo perché c'è una politica aziendale dietro che sta facendo appositamente questo per allontanare sia registi, attori, scenografi, chiunque. È normale che un attore preferisce girare più al cielo aperto di Roma o che piuttosto dentro i teatri, avvicinarsi ai teatri, perché i costi sono diventati veramente cari, ma questo è proprio fatto appositamente per cacciare via le persone, per cacciare via le produzioni. E questo non l'abbiamo già denunciato questa cosa, però qualcuno ha fatto sempre orecchie da mercante. Molti registi prendono i finanziamenti italiani e poi vanno a girare in Bulgaria, esatto, in Romania, così, però con i finanziamenti italiani, e questo lo Stato dovrebbe vigilare su questo. Senti, sì, non ti... No, perché c'è un po' di casino, non sento più. Sì, no, e sento le trombe giustamente, sì, della protesta sotto, ma insomma è bene che sia così. appunto, insomma, quindi c'è molti dei fondi della cinematografia pagati dallo Stato vanno poi insomma all'estero, sì. Poi c'è naturalmente un abbassamento del costo del lavoro e naturalmente un profitto sempre alto per le compagnie di produzione. Ecco, questo meccanismo è un meccanismo che si dovrebbe andare ad attaccare se veramente si vuole andare a rilanciare anche un lavoro insomma vero delle maestranze di Cinecittà tutte, insomma. Ma no, ma non, io penso che non ci sia proprio l'idea di rilancio qui all'interno di Cinecittà, almeno con questa gestione che è stata data a Luigi Abete, a De La Valle, a De Laurentiis, alla famiglia Zaghi, perché sono loro i gestori di Cinecittà, degli immobili di Cinecittà, che lo Stato gli ha dato in gestione. Però ecco, questo anche quando è stato fatto all'Unione Industriale gli incontri, sono stati fatti incontri tra azienda e sindacati regionali, ma non hanno chiamato neanche in causa il Ministero dei Beni Culturali. Quindi il tavolo dovrebbe essere aperto sia ai sindacati nazionali che anche al Ministero dei Beni Culturali, oltre anche noi del Comitato di Fabbrica. Solamente ecco questo. Certo, no, il fatto è che comunque ci sia una privatizzazione, cioè ci sia stata una privatizzazione di studi pubblici, insomma, all'epoca Cinecittà è sempre stata un'azienda pubblica, e questo qui ha portato a quello che c'è oggi, insomma, a quello che sì, vediamo oggi, sì. E che naturalmente è chiaro che le famiglie De Laurentiis, come Abete, come altri che sono aziende produttrici di cinema, tendono naturalmente a rincarare i prezzi per poter anche contenere. Questo a me mi fa molta specie, anche il De La Valle, perché comunque dà i soldi per restaurare il Colosseo, dice che il Made in Italy è importantissimo e poi a noi ci affitta una multinazionale americana, è un po' un controsenso. Certo. Senti, guarda, un ultimo, insomma, sì, gli ultimi 5 minuti riguardo la vostra lotta e le vostre modalità. Ecco, voi avete occupato, come funziona l'occupazione, insomma, che ruolo hanno i sindacati confederali, se ce l'hanno, e naturalmente rilanciamo anche l'assemblea di oggi alle 18. L'occupazione andrà avanti per altri giorni fino a mercoledì. E finché non otteniamo delle risposte, se non le otteniamo o non sono chiare, continueremo in questa occupazione. E per quanto riguarda i confederali, così loro si stanno muovendo e basta. Ok, vabbè, insomma, mi sembra di capire, insomma, sì, si muovono, ma cioè, hanno un ruolo, no? Cioè, perché altrimenti quelli che ci stanno muovendo siamo noi sindacale, del Comitato di Fabbrica, di tutte le sigle, i lavoratori stessi e anche un po' i sindacati, però vanno un po' smossi perché No, perché in effetti c'è uno pensano, visto che è 15 forse. Anni che questa cosa va avanti, che la privatizzazione anche di più di Cinecittà abbia avuto luogo senza che i sindacati, insomma, si siano espressi in modo da andare a prevenire un male invece che andarlo a curare, insomma, in queste condizioni, ecco, forse infatti saremo noi lavoratori che vigileremo sopra, esatto, i confederali, questo. Cioè, questo è il minimo, perché visto che fino adesso, insomma, è andata così, mi sembra. Va bene, noi ci risentiamo prossimamente, naturalmente rilanciamo un'altra volta nuovamente l'assemblea di oggi alle 18, e invitiamo tutti naturalmente a partecipare. Con te ci sentiamo prossimamente, insomma, per altri aggiornamenti. Ricordiamo un'altra volta l'assemblea oggi a Cinecittà alle ore 18. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Stai a